Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è una storia di maratone e priorità. Quando abitavo a Padova vivevo vicino a un bellissimo argine che a primavera, nelle ore di punta di chi corre, la mattina presto e il tardo pomeriggio, è affollatissimo. Un esercito di persone concentrate, sudate, immagino felici. Un esercito di persone che amano correre. Usano abiti tecnici e apposite scarpe da ginnastica. Io detesto correre e ho un solo paio di scarpe da ginnastica, recenti, comprate dopo che durante una camminata estiva una vespa mi ha punto sotto la pianta del piede, rendendo chiaro perfino a me che i sandali greci non sono davvero l'alternativa universale all'andare in giro scalza. Anche se detesto correre, un po' per gli anni giovanili dedicati all'atletica leggera e un po' grazie a molte amicizie dedicate a maratone e triathlon, ciao Mile, ciao Gianluca, so bene che tra una maratona e una corsa di velocità ci sono differenze enormi. Sì, sempre di correre si tratta, ma è diverso il percorso, la tecnica, l'attrezzatura. Soprattutto è diversa l'attitudine, una maratona è lunga e chiede un certo tipo di strategia nell'utilizzo delle energie, mentre i 100 piani sono un affare totalmente diverso. Spesso viviamo la nostra vita come se fossero i 100 piani. Ci troviamo senza fiato e non ci godiamo la corsa, il movimento, il paesaggio, le altre persone lì con noi. Arrivo al fine settimana e poi mi riposo 2 ore. Arrivo alle ferie e finalmente mi fermo un po'. Finisco questo progetto e poi tiro il fiato. Senza renderci conto che, con quel traguardo in mente, corriamo a perdifiato come se fossero i 100 piani e invece una maratona, oppure una passeggiata lungo l'argine. Il punto è accorgersene. A volte, certo, una corsa veloce va fatta. A volte è una corsa più lunga, ma a dirla tutta, no, non è sempre una corsa. Come si fa a capire la differenza? Come si fa a capire la differenza? È un fatto di priorità. Vederle è facilissimo, se siamo sinceri con noi stessi. Te lo spiego in 3 punti. 1. A cosa dai la tua priorità oggi? Onestamente, eh? 2. Cosa ti serve davvero in questo momento? 3. Quello che ti serve davvero adesso rientra tra le tue priorità di oggi? Se non rientra, lo puoi inserire fra le tue priorità? Ti sembra egoista? Eppure, se hai cura di te, se hai gentilezza con te stessa o te stesso, sarà molto più difficile che tu corra una maratona confondendola con i 100 piani. E magari la metafora cambierà. Magari la corsa diventerà una passeggiata in un luogo interessante. Per me, yoga è praticare se stessi. È quindi una pratica di interezza. È il percorso che mi mostra sempre ciò che davvero mi serve. Vuoi praticare insieme a me in presenza? Sabato 18 marzo sarò a Bologna, in zona Murri, con una lezione speciale di yoga e mitologia, il punto di vista degli ostacoli, incontro alle soluzioni. C'è un solo posto libero ancora, quindi se ti interessa scrivimi. Lunedì 20 marzo, la sera, a Teolo, Padova, sempre con yoga e mitologia, ci sarà una lezione stavolta dedicata a Il potere del serpente, incontro a nuove energie. I posti liberi qui sono 2, quindi contattami se vuoi partecipare. Sul sito ancora non trovi le informazioni, ma tu segnati la data. Da venerdì 16 a domenica 18 giugno guiderò un weekend yoga sulle colline vicino a Siena. Ci sarà una promo per chi viene con un'amica o un amico, quindi non perderti le prossime newsletter. ho una proposta solo per chi è iscritta o iscritto a questa newsletter esclusiva per te. Per essere più in contatto con quello che davvero ti serve, guido, come forse saprai, il percorso online Yoga del Potere, Intenzione e Azione. È un percorso che amo molto. In questi 3 anni di lezioni del lunedì sera mi ha davvero sostenuta e sono io a guidarlo. Ho pensato a una promozione speciale solo per le persone iscritte a questa newsletter. 4 dirette i lunedì di aprile, dalle 19.30 alle 21, con registrazione a disposizione per una settimana, con 10 euro di sconto sul contributo di partecipazione. Quindi verseresti 50 euro anziché 60. Questa promozione scade il 29 marzo, quindi contattami se ti interessa. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Michael Ende dal suo Momo. Vedi Momo, non si deve mai pensare alla strada tutta in una volta, tutta intera, capisci? Si deve soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro, al prossimo colpo di scopa, sempre, soltanto, al gesto che viene dopo. Di nuovo si interruppe per riflettere prima di aggiungere: allora c'è soddisfazione. Questo è importante. Un grande abbraccio, soddisfatto. Laura.